English 24. Un saluto da Marta Cagnola. Eccoci di nuovo insieme per un altro dei nostri appuntamenti estivi con English 24. Mentre con Giulia Crivelli prepariamo la prossima edizione, vi proponiamo alcune delle interviste andate in onda in questi mesi. In questi giorni, la Mostra di Venezia, noi intanto ritroviamo uno dei protagonisti della scorsa edizione, un attore che è stato ospite della nostra trasmissione il 10 ottobre scorso. Anche questa sera rimaniamo, come in tutte le ultime puntate, in ambito cinematografico, perché affrontiamo ancora un film di cui abbiamo sentito parlare alla Mostra del Cinema di Venezia ormai qualche settimana fa, ma avevamo tutte queste voci da farvi ascoltare e non potevamo non dedicarci all'uomo che ha fatto più notizia alla Mostra del Cinema di Venezia, nonostante non fosse in concorso, George Clooney, che ha presentato questo film, The Man Who Stared at Goats, un film divertente ma anche con sfumature hippie, lo ha raccontato insieme a Ewan McGregor. Sentiamo. It was a funny thing. We were looking at a film that we thought it was a comedy from the very beginning, and we thought it was fun, and we thought it was based on such an interesting world. You, Grant, you could actually talk about that a little bit. Talk about what it was we were. Well, there's certain elements of the hippie lifestyle that I believe in. I don't know about walking through. Well, I don't really want to go on to which ones those are. I don't know, Ewan really is a big believer in cloud bursting. And what else? Are you I don't know, hamster killing. Oh yeah, he's killed a few hamsters in his life, but that's another story that I'm not really allowed to talk to. Beh, insomma, George Clooney ultimamente ha puntato moltissimo sulla simpatia, deve sempre fare qualche battuta quando è nelle conferenze stampa, e qui ha fatto un piccolo sketch con Ewan McGregor, ma andiamo per ordine. Questo film a loro subito è parso un film divertente, una commedia. Sì, loro dicono it was a funny thing, cioè la cosa divertente è che questo film a cui loro guardavano, perché ovviamente era un progetto ancora, we were looking at a film that we thought it was a comedy, quindi noi eravamo convinti che questo film fosse effettivamente una commedia, from the very beginning. Notarsi questo uso di very, che ovviamente noi non possiamo dire dal molto inizio, noi diciamo fin dall'inizio, ma qui è per sottolineare proprio dall'inizio, quindi from the very beginning, oppure si può usare per qualsiasi cosa, anche ti ho amata dal primo momento che ti ho vista, from I loved you from the very first time I saw you. E tra l'altro hanno chiesto a George Clooney se c'era qualcosa in questo film di un certo stile di vita quasi hippie. E lui ammette, there are certain elements of the hippie lifestyle I believe in. Ovviamente George Clooney è nato un po' dopo, era proprio un bambino all'epoca degli hippie, però poi è stato imbevuto, come forse tutti noi, qualcosa conosciamo della cultura hippie, e quindi lui dice ci sono degli elementi di questa lifestyle, di questo stile di vita in cui credo anch'io, to believe in, credere in, esattamente come in italiano. Senti, ma questo siparietto con Ewan McGregor cosa si dicono? E poi vabbè, siccome ci sono questi simboli come della cultura hippie, come sono poi stati tramandati, chissà se era davvero così, come per esempio il cloud bursting, no? Lo sparare alle nuvole, e quindi per esempio lui, George Clooney, dice Ewan è un big believer in cloud bursting, cioè uno che crede molto in questo fantastico sport dello sparare alle nuvole, e poi gli dice poi c'è qualcos'altro che ti affascina di quel periodo. E lui non lo sta dicendo sul serio, dai, cioè sta facendo una battuta anche Ewan McGregor, perché cosa dice? Spero di no, e qui avrete notato l'accento britannico di Ewan McGregor, che dice hamster killing, cioè il suo sport preferito era uccidere i criceti, dare la caccia ai criceti, e naturalmente qui ridono perché su queste cose, soprattutto in America, non si scherza, i criceti non si uccidono né dal vero né per finta, e quindi poi appunto la buttano sul ridere, e Ewan McGregor dice sì, George Clooney dice he's killed a few hamsters in his life, sì, ha ucciso un paio di criceti nella sua vita. That's another story, però la tagliano corta così, è un'altra storia. Tra l'altro questo film, The Man Who Stared at Goats, che noi vedremo in Italia in gennaio, è un film che ricorda un po' i lavori che George Clooney ha fatto con i fratelli Coen, e effettivamente lui lo riconosce, sentiamolo. You know, I've worked with the Coens 3 times now. They're really fun to work with. There are a lot of similarities in the script, and certainly, you know, Grant's not, you know, he's not two people, but he is Jewish, and I found that was very similar. I thought that, you know, Grant and I first met in acting class in 1982. He loaned me $100 to get headshots, which I still use, and And the truth is, we've grown up with some of the same sensibilities over the years, and a big influence on us would be the Coen brothers, starting with Blood Simple and Raising Arizona and films like that. So I think the experience was very similar in the sense that we knew what kind of movie we wanted to make, and Grant knew what kind of film he wanted to make, and I have nothing but trust in him. So in the same way that I do with Soderbergh or with the Coen brothers or people who I think are smart and know how to tell stories. Non ce la fa proprio George Clooney a non infilare una battuta dietro l'altra, anche in maniera un po' sorniona, e non tutti la colgono. Infatti a un certo punto lui fa una battuta su Grant Heslop, che è il regista di questo film, dice: ci sono effettivamente molte cose che assomigliano, che lo fanno rassomigliare ai Coen, non tutti colgono l'ironia in questo aspetto. Sì, lui dice appunto che i Coen saltano sempre fuori quando ci sono questi film dove magari lo script conta molto, c'è un po' di nonsense, quindi il parallelo. E quindi naturalmente lui dice: sì, I've worked with the Coens 3 times now, quindi ho già fatto 3 film, ci sono certe similarità, però Grant is not 2 people, però Grant non è 2 persone ma uno solo, però he's Jewish, però è un ebreo, quindi si potrebbe anche pensare che George Clooney, secondo a mio parere, ha ragione, pensi che ogni ebreo vale per 2 perché sono intelligenti il doppio di noi. Tra l'altro non solo intelligenti ma anche divertenti, perché sì, è molto fun to work with, quindi è divertente lavorarci, potremmo dire in italiano. Non è una conoscenza recente quella con Grant Heslop in realtà. Oh, anzi, dice: Grant and I first met in acting class in 1982, quindi io e Grant, in inglese per essere gentili si dice sempre Grant e io, quindi si sono conosciuti, first met per la prima volta in acting class, cioè a scuola di teatro, nel 1982, cioè nel 1982, e addirittura Grant loaned me $100 to get headshot, mi ha prestato, to loan, prestare $100 per fare per scattare dei primi piani da book, diciamo, quelli che poi si portano, credo, alle audizioni. E qui fa un'altra battuta. Eh sì, perché deve essere risparmioso George Clooney, anche se pare abbia regalato un anello preziosissimo di Cartier alla Canalis. Evidentemente è riuscito a guadagnare quei soldi risparmiando. Per esempio, appunto, dice: those headshots, quei primi piani, I still use, cioè sono gli stessi che uso ancora. Non ci crediamo molto, ma comunque. Vabbè, lui è un buon tempone George Clooney, che però poi cerca di spiegare anche in maniera un po' più seria questo suo rapporto con Grant Heslop. Sì, dice: we've grown up, quindi siamo cresciuti, qui si usa questa forma to have grown, quindi have più il participio passato, siamo cresciuti con lo stesso tipo di sensibilities, che non sono le sensibilità nel senso di essere sensibili perché si è delicati d'animo, ma lo stesso modo di sentire, quindi con la stessa sensibilità ma intellettuale, non diciamo romantica. Tra l'altro c'è anche grande fiducia. Sì, qui un'altra espressione interessante, dice: I have nothing but trust in him, che letteralmente è niente ma fiducia in lui. È un modo appunto per dire che ho estrema fiducia in lui. Dobbiamo capire, perché una giornalista gliel'ha chiesto, visto che il film ha qualcosa a che vedere col tema, se ha poteri paranormali. Sentiamo cosa ha combinato. Stand back up, I'm gonna read the rest of your mind. Shame on you. That is filthy. Shame. Is there someone in here named Dave? No, I didn't practice any psychic powers. I figured I'd fake it. My hand, I broke in a car door, which I'm not proud of either. So mostly I'm just kind of a mess. Usually I show up here on crutches or something. It's usually a basketball injury. This time it was worse. I'm getting stupider in my old age, for the most part. Allora, tutte le conferenze stampa di George Clooney ormai sono degli happening, perché le domande sono sempre: sei gay? Ti amo? Mi sposi? Questa invece gli ha chiesto: ma davvero tu hai dei poteri paranormali? E lui non può che prendere la palla al balzo. E quindi dice: stand back, mettetevi, state indietro, I wanna read the rest of your mind, quindi voglio leggere le vostre teste, i vostri pensieri. E quindi fa per pensare, e quindi finge di vedere nelle nostre teste delle cose tremende su di lui, dei pensieri sporchi forse, libidinosi, lussuriosi, e quindi dice: shame on you, vergognatevi di questi pensieri che si suppone tutte le presenti soprattutto abbiano su di lui. Dei pensieri un po' filthy. Filthy, cioè proprio sporchi, nel senso appunto di sporcaccioni, ecco. Vabbè, insomma, poi confessa invece che sta scherzando. Ovviamente non c'è stato un minuto senza una battuta o uno sketch. Non ha mai esercitato l'arte del paranormale. Ecco, tra l'altro anche qui, psychic non è psichico, ma appunto paranormale. Quindi dice, I didn't practice any psychic powers. Non mi sono esercitato per vedere se avevo dei poteri paranormali. I figured, to figure vuol dire ho pensato che, mi sono immaginato che, ho deciso che. Quindi I figured I'd fake it. Ho pensato, farò finta che li ho. To fake something vuol dire fare finta di, fare immaginare di, o fare in modo che qualcuno pensi che tu ce li hai i poteri, quando invece non ce li hai. E non è l'unica cosa che ha finto di fare. Sì, poi dice, mi presento sempre qui con qualche tipo di, qui probabilmente, quindi a Venezia, non è la prima volta che lo vediamo, injured, cioè con qualche tipo di ferita, e quindi dice, questa volta lo sappiamo, no? Vi ricordate quelle foto, le prime foto con Elisabetta Canalis, dove lui aveva la mano fasciata, perché dice I've broken in a car door, l'ho rotta, ho rotto questa mano, mi sono fatto male cercando di aprire una portiera, e I'm not proud of either, e non ne sono particolarmente fiero, perché evidentemente è stata una mossa particolarmente goffa o stupida, cosa che gli capita spesso. I'm usually a mess. Mess vuol dire sono un casinista, cioè sono uno che fa pasticci, che si muove goffamente e fa male a se stesso, magari agli oggetti che lo circondano. Quindi I show up in crutches, cioè si presenta con le stampelle, lo abbiamo visto quando ha avuto l'incidente stradale, oppure si fa male giocando a basketball. Questa volta è stato anche peggio, perché lo ammette. E qui è fantastico, perché scopriamo che si può fare il comparativo di stupid, e dice I'm getting stupider in my old age, quindi sto diventando più stupido, la dizione corretta sarebbe more stupid, ma lui dice stupider in my old age, gli concediamo questa licenza simil poetica, quindi diventa più stupido for most of things, cioè dice per la maggior parte delle cose, poi forse in qualche modo si rende conto che forse darsi da solo dello stupido è un po' esagerato. E questo era George Clooney, che a Venezia ha presentato The Man Who Starred Goats di Grant Tesloff. Il film uscirà il prossimo gennaio, noi invece ritorniamo con English 24 sabato prossimo alla stessa ora, mentre vi ricordiamo che in edicola c'è sempre il nostro English 24. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.